Carissimi, Gesù mi protegga, le mie figlie e i miei figli. Quest'anno, nel suo messaggio per la Quaresima, il Papa affronta l'ampio tema della giustizia, riferendosi alla definizione classica di questa virtù, dare a ciascuno il suo. Benedetto XVI spiega che ciò di cui l'uomo ha più bisogno non può essergli garantito per legge. Per godere di un'esistenza in pienezza gli è necessario qualcosa di più intimo che può essergli accordato solo gratuitamente. Potremmo dire che l'uomo vive di quell'amore che solo Dio può comunicargli avendolo creato a sua immagine e somiglianza. Dare a ciascuno il suo nell'ambito delle relazioni umane è presupposto indispensabile per lo sviluppo di una società giusta, veramente umana. In tal senso, ciascuno deve sforzarsi per compiere il meglio possibile i doveri verso gli altri, sia individualmente, sia in seno alla comunità di appartenenza, famiglia, impresa, società civile. Però non possiamo accontentarci di questo. San José María consigliava: esercita la giustizia arricchendola con il garbo della carità. L'onestà, la rettitudine nel compimento dei doveri verso gli altri, costituisce la base di una convivenza civile ben ordinata, ma non è sufficiente. Il Signore si preoccupò di guarire gli ammalati, di dare da mangiare agli affamati, eccetera, ma anche e soprattutto di alleviare le necessità spirituali. L'ignoranza delle cose divine, la malattia del peccato. Perché, come scrive Sant'Agostino, se la giustizia è la virtù che distribuisce a ciascuno il suo, non è giustizia umana quella che allontana l'uomo dal Dio vero. Per questo San José María ripeteva: siate persuasi che non potrete mai risolvere i grandi problemi dell'umanità unicamente con la giustizia. Quando si fa giustizia e basta, non c'è da meravigliarsi che la gente si senta ferita. La dignità dell'uomo, che è figlio di Dio, chiede molto di più. La carità deve accompagnare e penetrare tutto, perché addolcisce, deifica. Dio è amore. Dobbiamo sempre essere mossi dall'amore di Dio, che rende più facile voler bene al prossimo e purifica e innalza gli amori terreni. Queste considerazioni aiutano a mettere in pratica all'inizio della Quaresima l'invito alla conversione che la liturgia ci rivolge durante queste settimane di preparazione alla Pasqua. Per collaborare efficacemente all'instaurarsi di un ordine più giusto nella società, dobbiamo innanzitutto fare ordine noi stessi. Nostro Signore lo aveva già affermato nel riprendere i farisei a proposito degli alimenti puri e impuri. Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che entrano, che escono dall'uomo a renderlo impuro. In effetti il cuore umano, ferito dal peccato originale e dai peccati personali, costituisce la fonte peggiore dei peggiori mali. Eppure, nel cuore umano, guarito e purificato dalla grazia, si trova anche all'origine dei più grandi beni. Il peccato originale è stato a causa di rottura della primitiva comunione che univa strettamente gli uomini con Dio e fra di loro. I peccati personali rendono ancora più grave questa frattura, fino a renderla profondamente separante. Lo si vede in tanti aspetti della vita individuale e collettiva. Pur essendo per natura aperto agli altri, l'uomo avverte dentro di sé una strana forza di gravità che lo porta a ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi sopra e contro gli altri. È l'egoismo, conseguenza del colpo originale. Adamo ed Eva, sedotti dalla menzogna di Satana, afferrando il misterioso frutto contro il comando divino, hanno sostituito la logica del confidare nell'amore quella del sospetto e della competizione, alla logica del ricevere e dell'attendere fiducioso dall'altro quella ansiosa dell'afferrare e del fare da sé. Sperimentando come risultato un senso di inquietudine e di incertezza. Come può l'uomo liberarsi da questa spinta egoistica e aprirsi all'amore? Questa domanda esprime l'aspirazione più profonda di ogni persona, perché essendo stati creati per amore e per l'amore, tutti gli uomini e tutte le donne, per quanto talvolta sembrino nasconderlo, aspirano a colmare il loro cuore di un amore puro e grande, che significa donazione a Dio e agli altri, per amore di Dio, in modo che non vi sia più spazio per l'amore proprio disordinato. Come è possibile solo con l'aiuto della grazia divina che guarisce, fortifica ed eleva la nostra anima. Grazia che ci giunge abbondantemente soprattutto attraverso i sacramenti della penitenza dell'Eucaristia. Coltiviamo quindi in questa Quaresima il desiderio di rinnovamento spirituale, preparandoci bene ad accostarci alla confessione con la frequenza dovuta e curando la preparazione quotidiana a ricevere il Signore nell'Eucaristia. Facciamo il possibile perché le persone che frequentiamo abitualmente seguano questo stesso cammino. Abbiamo messo a punto il modo di compiere le pratiche quaresimali che la Chiesa raccomanda in queste settimane? Cercare il dialogo con nostro Signore e con Maria Santissima, vivere con maggiore generosità lo spirito di penitenza, proporsi concrete forme di aiuto agli altri, anche e soprattutto attraverso l'apostolato, tracciano il cammino per giungere con l'anima ben disposta a ricevere i frutti della Pasqua. In questo itinerario assume grande importanza lo sforzo per convertirsi ogni giorno a Dio in qualche determinato aspetto del nostro modo di vivere. Questi successivi cambiamenti, magari in piccole cose, affrontate però con la medesima decisione che se fossero cose grandi, sono momenti di grande importanza per la nostra santificazione. Il Signore desidera ardentemente che si verifichi questo cambiamento in noi, ma ha bisogno della nostra collaborazione personale. Ricordiamo quelle parole di Sant'Agostino: Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Con l'aiuto dello Spirito Santo, i piccoli progressi quotidiani hanno il potere di spalancare le porte del nostro io, di modo che la grazia divina lo purifichi e lo infiammi dell'amore di Dio e del prossimo. Per questo, come scrisse San Cosimo Maria, non possiamo considerare questa Quaresima come un tempo in più, ripetizione ciclica del tempo liturgico. Questo momento è unico, è un aiuto divino che bisogna raccogliere. Gesù passa al nostro fianco e attende da noi, oggi, adesso, un grande cambiamento. La parola giustizia nella Sacra Scrittura ha un'accezione assai profonda, soprattutto quando è attribuita a Dio. In questo senso designa soprattutto la santità divina che il Signore desidera comunicarci gratuitamente per mezzo della fede in Gesù Cristo, come insegna San Paolo nella lettera ai Romani. E non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia. Solo uniti a Gesù, con la fede e i sacramenti, facciamo nostra questa santità che Lui ci ha ottenuto, morendo sulla croce per i nostri peccati e resuscitando per la nostra giustificazione. Qui si dischiude la giustizia divina, profondamente diversa da quella umana. Dio ha pagato per noi nel suo Figlio il prezzo del riscatto, un prezzo davvero esorbitante. Di fronte alla giustizia della croce, l'uomo si può ribellare perché essa mette in evidenza che l'uomo non è un essere autarchico, ma ha bisogno di un altro per essere pienamente se stesso. Convertirsi a Cristo Credere al Vangelo significa in fondo proprio questo: uscire dall'illusione dell'autosufficienza per scoprire e accettare la propria indigenza, indigenza degli altri e di Dio, esigenza del suo perdono e della sua amicizia. Come si comprende bene, in questo contesto, la costante predicazione di San José María, innanzitutto con il suo esempio di rivivere quotidianamente nella propria esistenza la parabola del figlio prodigo, un insegnamento su cui dobbiamo tornare sempre, ma specialmente nelle prossime settimane. La vita umana, in un certo modo, è un continuo ritorno alla casa del Padre, ritorno mediante la contrizione, la conversione del cuore, che presuppone il desiderio di cambiare, la decisione ferma di migliorare la nostra vita, e si manifesta pertanto in opere di sacrificio e di dedizione. Ritorno alla casa del Padre per mezzo del sacramento del perdono, nel quale, confessando i nostri peccati, ci rivestiamo di Cristo e ridiventiamo Suoi fratelli e membri della famiglia di Dio. Dio ci aspetta come il padre della parabola, con le braccia aperte, benché non lo meritiamo. Non gli importa l'entità del nostro debito. Come nel caso del figlio prodigo, dobbiamo solo aprire il cuore e sentire la nostalgia del focolare paterno, meravigliarci e rallegrarci di fronte al dono divino di poterci chiamare e di essere, nonostante tante mancanze di corrispondenza, veramente figli di Dio. Ci sarà più facile percorrere senza stanchezza questo cammino se rimaniamo molto uniti alla Vergine Santa, nostra madre, e a San Giuseppe, suo castissimo sposo. Rivolgiamoci a loro con grande fiducia in quest'anno mariano che abbiamo cominciato a percorrere nell'opera con l'urgenza di rinnovare nella festa del Santo Patriarca la nostra devozione nell'opera. Mi hanno nuovamente colpito alcune parole di San José María su cui riflettere a fondo. Facendo riferimento all'inizio del lavoro dell'Opus Dei fra le donne, diceva alle sue figlie: «Pensavo che nell'Opus Dei vi sarebbero stati solo uomini. Non che non volessi le donne, ma prima del 14 febbraio 1930 io non sapevo nulla della vostra esistenza nell'Opus Dei, pur avendo nel mio cuore il desiderio di compiere in tutto la volontà di Dio». Figlie e figli miei, cerchiamo di alimentare questa disposizione, il desiderio di compiere la volontà di Dio in ogni istante. Comprendiamo che la condotta di una donna cristiana, di un uomo cristiano, ha senso solo se è così vibrante. Il mese scorso ho fatto un veloce viaggio a Valencia, su invito dell'arcivescovo, nel contesto dell'anno sacerdotale, e a Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, dove il lavoro della prelatura sta crescendo con forza. In entrambi i luoghi ho toccato con mano, ancora una volta, il bisogno di Dio presente in tante anime, e ho visto come ricevono con gratitudine lo spirito dell'Opus Dei, che rende loro più agevole la ricerca e l'incontro con la Santissima Trinità nelle occupazioni quotidiane. Come sempre in questi viaggi mi sono appoggiato sulla preghiera di tutte e di tutti. Continuate ad accompagnarmi sempre. Il prossimo 23 si compirà un nuovo anniversario del transito al cielo dell'amatissimo Don Alvaro. Nel ricordare la costanza con cui ci ha sempre sospinto verso Maria, vi suggerisco di ricorrere privatamente alla sua intercessione, perché le grazie di quest'anno mariano calino profondamente nelle vostre anime. Alla fine del mese, il giorno 28, commemoreremo un nuovo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di San José María. Con la sua intercessione preghiamo per il Papa, per i suoi collaboratori, per gli altri vescovi, per i sacerdoti del mondo intero, per le vocazioni sacerdotali e religiose, per la santità di tutto il popolo di Dio che Gesù Cristo ha acquistato a prezzo del suo sangue. Con tutto l'affetto vi benedice vostro padre Javier.